nuovo un bicchiere in mano, ci son cascato di nuovo, lo so. Ho dimenticato invano quando chiedevano, dicevo no, che non ci penso più da tempo. Ma che notavano il vuoto dentro? Bicchiere e bottiglie, immagini di una famiglia insieme a te. Mi sveglio, il telefono squilla, mesi d'attesa a chiedermi se è sbagliato quello che sento. Senza te solo il vuoto dentro. Pioggia, foto, voglia, dite il fuoco del camino che non hai. Luna, stelle, te sotto la pelle d'un cuscino dove lei dormiva. Bottiglia finita, se tu non fossi cambiata cosa farei? Momenti vissuti nel tempo cadono in ogni momento su me. Che fa male sentirli dentro. È una colpa se a te ci tengo. Se non ci sei è già tempo per me di sentire giù nell'immenso il coraggio di averti dentro. Pioggia, foto, voglia, dite il fuoco del camino che non hai. Luna, stelle, te sotto la pelle d'un cuscino dove lei dormiva. Pioggia, foto, voglia, dite il fuoco del camino che non hai. Luna, stelle, te sotto la pelle d'un cuscino dove lei dormiva.